Vediamo sempre sul giornale un tipino originale, seducente ammagliatore, nato dal cervello d'un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età. Signorina grande e bella, col sottile 900, ragazze d'oggigiorno sono tutte come te, basta solo guardarsi intorno, oh mamma mia quante ce n'è. Signorina grande bella, bella viva del momento, ti faremo un monumento tutto d'oro. Tu la vedi in ogni piazza, nei ritrovi e nei caffè, portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è. Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se questa donna esisterà. Del momento ti faremo un monumento.